Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Cari ascoltatori, un saluto a voi tutti. Dopo un po' di tempo torniamo a ritrovarci attorno alla parola di Dio, perché la parola di Dio possa essere luce sul nostro cammino, luce che ci fa vivere. In agosto non ci siamo sentiti perché ero ad annunciare la parola, a condividere la ricchezza di questo grande tesoro in una missione delle nostre suore a Taipei, nell'isola di Taiwan, quindi all'estremo oriente. Ma ora eccoci qui, arricchiti anche dei volti di nuovi popoli e di nuove esperienze, sempre illuminate dallo Spirito. Ecco, all'inizio di questa trasmissione voglio chiedere insieme a voi il dono dello Spirito Santo perché ci aiuti a cogliere la ricchezza del testo degli Atti degli Apostoli che stiamo leggendo in queste nostre puntate. E soprattutto ci doni la capacità di entrare nell'esperienza dell'Apostolo Paolo, in modo da non arricchire solo la nostra testa, ma favorire attraverso questa nostra trasmissione, questa nostra conversazione, l'incontro con il Cristo che opera sempre in noi e l'incontro con uno dei suoi principali apostoli, cioè l'Apostolo Paolo. Come alcuni di voi sicuramente ricordano, all'interno della nostra lettura degli Atti degli Apostoli siamo giunti al capitolo 22. Nell'ultima nostra trasmissione ci eravamo lasciati con l'Apostolo Paolo che in occasione della sua ultima visita a Gerusalemme viene arrestato sulla spianata del Tempio e lì, dopo aver tenuto un discorso alla folla in cui praticamente ricorda la sua chiamata, il suo incontro con il risorto, di fronte al popolo che grida e che urla, viene preso dai soldati con l'ordine di riportarlo all'interno della fortezza, visto che gli animi cominciano a scaldarsi. Bene, quindi noi riprendiamo il nostro racconto, la nostra riflessione, da dove l'abbiamo lasciata, quindi al capitolo 22, dal versetto 25 in poi. Chiedo a quanti di voi hanno la possibilità di farlo, di tenere sotto gli occhi un'edizione della Bibbia o del Nuovo Testamento in modo da ripercorrere, leggere insieme il testo degli Atti e poi commentarlo di brano in brano. Lo divideremo nella trasmissione di questa sera in tre parti, facendo seguire ad ogni parte un commento. Allora, cominciamo subito a leggere il testo. Quando l'ebbero disteso per flagellarlo, Paolo disse al centurione che stava lì: «Avete il diritto di flagellare uno che è cittadino romano e non ancora giudicato?» Udito ciò, il centurione si recò dal comandante ad avvertirlo: «Che cosa stai per fare? Quell'uomo è un romano». Allora il comandante si recò da Paolo e gli domandò: «Dimmi, tu sei romano?» Rispose: «Sì». Replicò il comandante: «Io questa cittadinanza l'ho acquistata a caro prezzo». Paolo disse: «Io invece lo sono di nascita». E subito si allontanarono da lui quelli che volevano interrogarlo. Anche il comandante ebbe paura, rendendosi conto che era romano e che lui lo aveva messo in catene. Allora vediamo un pochino su che cosa verte questa prima parte del nostro racconto. Allora, la prima parte tocca la questione dell'identità di Paolo. E dietro il discorso dell'identità del cittadino romano, ovviamente il narratore, cioè Luca, fa un discorso molto più profondo, perché evoca in colui che legge tutta una riflessione sull'identità cristiana che merita di essere evidenziata. Prima di tutto cerchiamo di capire come mai la questione della cittadinanza romana è così importante. La legge del tempo riteneva importante che il cittadino romano avesse un trattamento distintivo rispetto agli altri cittadini dell'impero. Quindi andava sempre giudicato da uomo libero se commetteva qualcosa di sbagliato, quindi in sede di giudizio non doveva portare le catene e soprattutto il cittadino romano non doveva essere sottoposto alla flagellazione in caso di giudizio. Cioè, in alcuni casi, se una persona era un ribelle e non era cittadino romano, per fargli confessare la verità, cosa si faceva? Si ricorreva alla flagellazione e a forza di frustate si chiedeva alla persona di confessare il proprio reato. Bene, se questa persona era cittadino romano, questa cosa non era possibile farla. Ora, cosa sta succedendo con Paolo? L'hanno già disteso per flagellarlo senza averlo giudicato e l'hanno incatenato. Quindi hanno compiuto verso di lui, che è cittadino romano, evidentemente pensando che lui non lo fosse, tre cose che erano proibite. Quindi la prima cosa è che l'avevano incatenato, la seconda cosa è che non gli hanno dato la possibilità di difendersi e la terza cosa è che lo stanno sottoponendo alla flagellazione. Quando queste cose venivano fatte verso un cittadino romano, erano considerati dei reati altrettanto gravi quanto quelli che si volevano punire. Quindi davvero il comandante, che viene subito chiamato dal centurione dicendo «ma cosa stai facendo? Questo è un cittadino romano», il comandante rischia grosso. E quindi giustamente Paolo fa valere la sua identità di cittadino romano. Ora, come un uomo poteva diventare cittadino romano? Soprattutto come Paolo, noi ci interroghiamo, è diventato cittadino romano visto che lui stesso, lo ripete, lo dice nella lettera ai Galati, lo ripete nella lettera ai Filippesi, è uno che è ebreo nato da ebrei ed era fariseo quanto alla legge. Com'è possibile che questo sia cittadino romano addirittura di nascita, quindi che è nato da un padre che era cittadino romano? Le circostanze che potrebbero riguardare Paolo potrebbero essere di due o tre tipi. Può darsi che il padre ha lavorato come militare all'interno di una legione romana, quindi se il padre lavorava per un tot di tempo, si riteneva 25 anni, come militare in supporto delle legioni romane, il figlio era considerato libero e anche il padre dopo i 25 anni riceveva la cittadinanza romana, quindi era considerato non più schiavo sottomesso all'impero di Roma, ma cittadino romano lui stesso. Quindi questa potrebbe essere una possibilità. Una seconda possibilità è il fatto che il padre poteva essere schiavo di un signore romano e si è comportato talmente bene come schiavo che alla fine il signore romano di cui era schiavo ha fatto un processo di adozione, lo ha non solo riscattato dalla schiavitù dandogli la libertà, ma l'ha adottato come figlio all'interno della sua famiglia dandogli la cittadinanza romana. Quindi questo si è poi ripercosso ovviamente sui figli, tra cui Paolo, che si è ritrovato cittadino romano. Un'altra possibilità poteva essere quella di passare all'interno di una città o di una colonia romana nei confronti della quale per alcuni atti benemeriti o per alcune circostanze molto particolari l'imperatore concedeva alle persone presenti straniere la cittadinanza romana. Alcuni ritengono che anche questa possa essere una risposta plausibile, visto che Tarso era una città che sembra aver goduto di questo privilegio. Un'altra possibilità ancora potrebbe essere quella di un particolare gesto di valore che, operando all'interno sempre delle operazioni militari delle truppe romane, senza aspettare i 25 anni, magari una grande vittoria che quella truppa è riuscita ad ottenere in una particolare operazione, bene, come segno di ringraziamento viene concesso ai guerrieri che non lo sono la cittadinanza romana. Quindi queste sono le diverse possibilità che possono aver favorito in Paolo il passaggio a cittadino romano. Però Al di là di queste questioni di cornice, vi dicevo, a noi interessa la riflessione sull'identità. Perché qui Paolo praticamente ci fa dire, se un cittadino romano riceve così tanta attenzione da parte del centurione e del comandante, al punto tale che viene immediatamente sospesa la flagellazione, viene rimesso in piedi, gli vengono tolte le catene, viene considerato una persona con cui si può dialogare e che ha il diritto di difendersi, il discorso indiretto, la riflessione indiretta che Luca fa fare al lettore è: cosa non deve ricevere un figlio di Dio? Uno che ha l'identità di essere figlio di Dio. Noi sappiamo dal racconto della Genesi come il sesto giorno della creazione, quando l'uomo e la donna vengono creati, le caratteristiche forti dell'uomo e della donna sono sostanzialmente tre. La prima caratteristica è di essere a immagine e somiglianza di Dio. Quindi è il fatto di portare dentro di sé l'impronta divina. L'uomo, Adamo ed Eva, è l'unico essere creato che non è creato secondo la propria specie. Se noi andiamo a leggere il racconto della Genesi, notiamo che nelle singole giornate, quando vengono creati gli alberi, quando vengono create le diverse forme di vegetazione, quando vengono creati gli uccelli, i pesci, le bestie selvatiche, tutti vengono creati secondo la propria specie e ognuno porta frutto secondo la propria specie. Nel caso dell'uomo invece, l'uomo non è creato secondo la propria specie, l'uomo è creato a immagine e somiglianza di Dio. C'è un enorme salto che gli dà una grandissima dignità, perché lo mette all'interno della famiglia di Dio. Ecco allora la questione dell'identità. Paolo viene qui sospesa la sua condanna perché è cittadino romano. In futuro Paolo, cosa nel passato e nel futuro, cosa Paolo testimonierà, annuncerà nelle sue lettere? Annuncerà il grande discorso della figliolanza. Se un cittadino romano merita così grande rispetto, noi siamo figli di Dio, noi abbiamo lo Spirito Santo che grida in noi, Abba, Padre, e tutto questo cosa non ci rende davanti a Dio? Se un cittadino romano merita di rispetto, cosa non riceve un figlio di Dio? Secondo aspetto che nel discorso della Genesi sottolinea l'identità dell'uomo creato, è il fatto che l'uomo è creato per la relazione, per cui l'uomo viene subito creato nella complementarità del maschile e del femminile, maschi e femmina li creò, l'uomo e la donna stanno l'uno di fronte all'altro e ciascuno capisce la propria identità guardando negli occhi l'altro. L'uomo la caratteristica dell'uomo è la relazione, cosa che non si trova negli altri esseri viventi. Gli altri esseri viventi sono certo in relazione con il creato, ma non stanno in piedi l'uno davanti all'altro, non si guardano negli occhi, cosa che invece caratterizza l'uomo e la donna. Cosa predicherà Paolo all'interno delle sue lettere, no? Il superamento di una visione individualista dell'uomo, il passaggio dall'individuo alla comunità, la comunità come corpo che si stringe attorno al capo. E vedete qui in questo brano Paolo, che era steso a terra, viene fatto rialzare perché è cittadino romano, tanto più come figli di Dio siamo chiamati a stare in piedi, a costruire il corpo di Cristo che è la Chiesa. Terzo aspetto, la terza caratteristica dell'identità umana nella creazione è il fatto che l'uomo ha il potere di governare e custodire il mondo, quindi custodire il dono che Dio gli ha dato e governarlo, non nel senso di schiacciarlo, ma nel senso di guidarlo, favorire il suo presente, il suo futuro. Ora, nella scena che noi abbiamo letto, a Paolo viene riconosciuta un'identità come cittadino romano, che perché il cittadino romano è libero, nel senso che da essere libero può costruire il mondo, può contribuire nel mondo con la sua presenza, con le sue conoscenze, con la sua forza, con la sua persona. Ecco, cosa Paolo insegnerà nelle sue lettere? Noi che siamo figli di Dio siamo stirpe regale, profetica, sacerdotale e insieme come corpo di Cristo diamo un'impronta nuova all'umanità. Quindi vedete che in questo brano, dietro un'immagine semplice, una rivendicazione che sembra essere una rivendicazione di carattere politico da parte di Paolo, di dire sono cittadino romano e quindi cosa state facendo nei miei confronti, dietro però c'è tutta una riflessione che già anticipa nel lettore uno dei temi forti della teologia di Paolo, l'identità di essere figli di Dio. Ora lasciamo un breve stacco musicale in modo che ciascuno ha modo di leggere nuovamente questi versetti, dopodiché passiamo alla seconda parte del brano e vediamo come continua la nostra narrazione. Correndo alla casa di un ricco portò un vaso di profumo. Vediamo come continua il nostro brano, quindi andando dal versetto 30 in poi. Il giorno seguente, volendo conoscere la realtà dei fatti, cioè il motivo per cui veniva accusato dai giudei, gli fece togliere le catene e ordinò che si riunissero i capi dei sacerdoti e tutto il sinedrio. Fece condurre giù Paolo e lo fece comparire davanti a loro. Con lo sguardo fisso al sinedrio, Paolo disse: «Fratelli, io ho agito fino ad oggi davanti a Dio in piena rettitudine di coscienza». Ma il sommo sacerdote Anania ordinò ai presenti di percuoterlo sulla bocca. Paolo allora gli disse: «Dio percuoterà te, muro imbiancato. Tu siedi a giudicarmi secondo la legge, contro la legge comandi di percuotermi». E i presenti dissero: «Osi insultare il sommo sacerdote di Dio?» Rispose Paolo: «Non sapevo, fratelli, che fossi il sommo sacerdote. Sta scritto infatti: non insulterai il capo del tuo popolo». Bene, veniamo alla seconda parte. Allora, notiamo che in ognuna di queste parti Paolo esce dalla situazione che sta vivendo con una frase che ha sempre un po' un doppio senso. Come prima la frase «io sono cittadino romano» e richiamo alla cittadinanza romana ha comunque sullo sfondo un richiamo alla profonda identità dell'uomo come figlio di Dio e quindi alla sua dignità. Qui la frase che è un pochino sibillina è proprio la risposta che dà, cioè «non sapevo, fratelli, che fosse il sommo sacerdote». Cercheremo di capire in che senso. Allora, notiamo prima di tutto che Paolo, subito in questa seconda scena, viene trattato da uomo libero, quindi viene presentato senza catene, viene portato giù in mezzo al sinedrio, quindi la massima espressione del potere religioso, e in piedi gli viene data la possibilità di parlare. Quindi è un uomo libero che cerca di giustificare quello che si sta verificando e ovviamente i romani, il comandante, il centurione, vogliono capire bene come mai c'è stata quella rivolta nel contesto del Tempio. E Paolo inizia con un «fratelli, io agito davanti a Dio in piena rettitudine di coscienza». Allora, interessante il modo in cui Paolo si colloca, perché si colloca davanti alle autorità giudaiche chiamandoli fratelli, quindi ponendo anche se stesso all'interno del massimo rispetto dell'autorità religiosa. Tenete presente che anche se sono passati un po' di anni, è probabile che all'interno del Sinedrio qualcuno di loro si ricordi di lui, visto che quando lui andava a Damasco le lettere gli erano arrivate dal Sinedrio di Gerusalemme, dalle autorità religiose di Gerusalemme. E poco prima, narrando la sua storia, aveva detto chiaramente che quello che lui aveva vissuto quando aveva perseguitato la via cristiana, dice: di questo può darmi testimonianza anche il sommo sacerdote e tutto il collegio degli anziani, quindi ci sono molti lì che lo conoscono. Quindi chiaramente li chiama fratelli come persona che ha condiviso con loro anche alcune convinzioni. Secondo aspetto, si pone davanti a Dio. Ecco, dire io ho agito fino ad oggi davanti a Dio in piena rettitudine di coscienza è una forma quasi di giuramento, dove Paolo attesta in modo solenne che quello che lui ha fatto è qualcosa di corretto, cioè che lui non ha fatto niente di male. La reazione di Anania, del sommo sacerdote, che era il presidente del Sinedrio e quindi gestiva anche i momenti vari di questa sorta di processo che veniva fatto nei confronti di Paolo, Anania dà ordine che Paolo venga percosso sulla bocca. E qui c'è un parallelismo con un altro episodio che viene narrato nel racconto della Passione di Giovanni, dove Gesù, durante il processo, davanti alle autorità religiose, viene percosso da un inserviente, riceve uno schiaffo. E Gesù, rispondendo a questo, mentre riceve lo schiaffo, si sente dire: così insulti il sommo sacerdote di Dio? E Gesù risponde dicendo: se ho parlato male, dimmi dov'è il male, ma se non ho parlato male, perché mi percuoti? Quindi anche Gesù reagisce facendo verità su quello che ha appena detto. Ora, qui Paolo fa verità con toni un pochino più forti, perché si rivolge direttamente al sommo sacerdote che ha dato ordine di colpirlo sulla bocca. Colpire sulla bocca era un modo per dire che quello che Paolo aveva detto era una bestemmia, ed era qualcosa che era uscito da uno spirito nemico, da un demonio, non da Dio. E quindi veniva percosso il male che doveva uscire, invitando la persona a tacere. Paolo non tace, ma risponde dicendo: Dio percuoterà te, muro imbiancato. Tu siedi a giudicarmi secondo la legge, e la legge dice che non ci deve essere differenza nel giudizio tra il povero e il ricco, tra la persona libera e la persona schiava, e contro la legge comandi di percuotermi. E allora anche qui la risposta dei presenti è come era successo con Gesù: osi insultare il sommo sacerdote di Dio? E Paolo se la cava citando la legge, dicendo: è vero, il sommo sacerdote, cioè, non deve essere insultato. Qui viene citato un passaggio dell'Esodo, del capitolo 22 dell'Esodo. Però sibillinamente dice: non sapevo, fratelli, che fosse il sommo sacerdote. E uno dice: come non sapevi che era il sommo sacerdote? Il sommo sacerdote era palese all'interno di una assemblea di questo tipo. Era seduto al posto principale, era vestito in un certo modo ed era colui che dava indicazioni su come svolgere il processo. Era chiaro che Paolo sapesse chi era il sommo sacerdote. Allora perché dice: non sapevo, fratelli, che fosse il sommo sacerdote? Perché in modo ironico sta dicendo: siccome non si è comportato da sommo sacerdote, ecco, io ho pensato che fosse qualcun altro. Quindi in modo indiretto, con la citazione della legge, dice indirettamente scusa al sommo sacerdote, ma usando quell'espressione continua ad accusare chi non si è comportato da sommo sacerdote, quindi rispetta la figura, ma non la persona che in quel momento si è comportata in un modo totalmente sbagliato. E anche qui c'è un gioco dietro questa scena, perché c'è come un passaggio dall'Anania che gli ha donato la vita, quando lui era partito con le lettere da Gerusalemme per andare ad arrestare i credenti di Damasco, ed era stato raggiunto dalla luce del risorto sulla via di Damasco, arrivato a Damasco, chi è che lo accoglie? Chi è che dà forza a Paolo accogliendolo all'interno della comunità? Anania, che lo chiama fratello mio. Ora un altro Anania vuole la sua morte, un altro Anania al ritorno a Gerusalemme vuole la sua morte. Sono due modi diversi di un percorso di Paolo che è arrivato ad un momento importante della sua missione, del suo ministero. Il ministero di Paolo è quello di trasmettere, testimoniare l'amore del suo Signore. Ora qui ci sembra quasi di sentire quello che tra l'altro abbiamo celebrato pochi giorni fa nella festa dell'esaltazione della croce. L'amore non è autentico se non arriva a lasciarsi trafiggere. In un'Anania Paolo ha ricevuto la vita, da un'altra Anania Paolo, l'amore di Paolo per il suo popolo, viene trafitto. Chi è più importante, il primo Anania o questo Anania che è un muro imbiancato, che è un collaborazionista dell'autorità romana? Entrambi sono importanti. Se uno coglie in entrambi il passaggio di Cristo, certo in modo diverso, se uno accoglie Cristo che attraverso entrambi presenta a Paolo la sua volontà, entrambi sono importanti. E vedremo poco dopo, nella terza parte di questo brano, quanto l'esperienza di Paolo, che noi stiamo leggendo, è importante per tutto il suo ministero. Quindi abbiamo due risposte ferme in questa scena, la risposta ferma di Gesù in Giovanni e la risposta ferma di Paolo, che dicono però la consapevolezza di essere non solo davanti a un processo umano, ma davanti al mistero della volontà di Dio. Una volontà di Dio che a volte trafigge l'uomo, ma lo trafigge non per chiuderlo in prigione, ma per rendere il suo ministero ancora più fecondo, come avremo modo di vedere. Quindi prendiamo ancora qualche istante per leggere questi versetti, quindi facciamo ancora un breve stacco musicale, dopodiché entreremo nella terza parte del nostro racconto, che è la parte sostanzialmente più decisiva. Quindi lasciamo ancora lo spazio alla regia per un breve stacco musicale. Eccolo quel che abbiamo, nulla ci appartiene ormai. Ecco i frutti della terra che tu moltiplicherai. Ecco queste mani, puoi usarle se lo vuoi per dividere. Ecco, riprendiamo il nostro discorso sullo sfondo di questa musica offertoriale che bene si sintonizza con il nostro testo, cioè la vita di Paolo qui è un momento in cui, trafitta dalla provocazione del sommo sacerdote, diventa un grande offertorio e vedremo che diventa un offertorio fecondo. Allora, leggiamo i versetti dal 6 all'11, in modo da sentire come continua il racconto e cosa succede alla fine di questa scena. Paolo, sapendo che una parte era di Sadducei e una parte di Farisei, disse a gran voce nel Sinedrio: «Fratelli, io sono fariseo, figlio di Farisei. Sono chiamato in giudizio a motivo della speranza nella risurrezione dei morti». Appena ebbe detto questo, scoppiò una disputa tra i farisei e i sadducei e l'assemblea si divise. I sadducei infatti affermano che non c'è risurrezione, né angeli, né spiriti. I farisei invece professano tutte queste cose. Ci fu allora un grande chiasso e alcuni scribi del partito dei farisei si alzarono in piedi e protestavano dicendo: «Non troviamo nulla di male in quest'uomo. Forse uno spirito o un angelo gli ha parlato». La disputa si accese a tal punto che il comandante, temendo che Paolo venisse linciato da quelli, ordinò alla truppa di scendere, portarlo via e ricondurlo nella fortezza. La notte seguente gli venne accanto il Signore e gli disse: «Coraggio, come hai testimoniato a Gerusalemme le cose che mi riguardano, così è necessario che tu dia testimonianza anche a Roma». Allora, siamo arrivati alla terza parte del nostro brano e quindi nel contesto delicato del Sinedrio e dell'accusa anche che gli è stata appena fatta da parte del sommo sacerdote, notiamo subito qual è l'orizzonte di Paolo. Paolo mette al centro della discussione la risurrezione dei morti. Io sono chiamato in giudizio a motivo della speranza nella risurrezione dei morti. Allora, alcuni dicono che questa è stata una mossa astuta di Paolo, cioè Paolo è stato semplicemente furbo e ha spostato l'attenzione su qualcosa di secondario in modo da creare scompiglio all'interno dell'assemblea. Io direi che non è solo una mossa astuta, ma è un modo certamente illuminato di mettere al centro la questione. Paolo dice chiaramente qual è il centro della questione, cioè lui è apostolo del risorto. E quindi ogni tipo di discussione, se non riconosce che il Signore è il vincitore della morte nella risurrezione, è inutile che abbia alcun esito. L'orizzonte di Paolo è l'orizzonte della risurrezione, del Cristo che ha sofferto, che è morto e risorto. Ora, siccome questa mossa è una mossa illuminata, è chiaro che crea, cioè mette in evidenza cosa sta veramente a cuore all'assemblea che sta giudicando Paolo. Sta a cuore ciò che Paolo dice o vogliono solo far fuori quest'uomo che è scomodo? E si capisce subito che l'attenzione è far fuori Paolo, non gli interessano quello che lui predica, al punto tale che siccome sono talmente proiettati verso i propri interessi, la discussione si trasforma in un dibattito tra due partiti, il partito dei farisei che credono nella risurrezione e il partito dei sadducei che ancora non crede alla risurrezione. Questo ci fa capire anche come nell'ebraismo la fede nella risurrezione era qualcosa che non in tutti gli ambiti del giudaismo ancora era penetrata, ancora era entrata in profondità. Addirittura c'era tutta una parte, e tra l'altro la parte sacerdotale, quella dei sadducei, che escludevano ogni forma di risurrezione. No? Quindi a questo punto la reazione è quella di notare come il gran chiasso che si viene a creare all'interno dell'assemblea mostra che non sta a cuore a quelli che stanno giudicando Paolo la causa di Dio, ma sta più a cuore il proprio partito. Non sta a cuore il bene del popolo di Dio, ma la propria autorità che viene messa in discussione gli uni contro gli altri. I farisei mettono in discussione l'autorità dei sadducei, i sadducei mettono in discussione l'autorità dei farisei. E quando qualcuno grida forte dicendo non troviamo nulla di male in quest'uomo, forse uno spirito o un angelo gli ha parlato, quindi fa leva su quegli elementi che proprio i sadducei non credono, è chiaro che gli animi si accendono ancora di più e vogliono far fuori Paolo senza dargli permesso di continuare il suo discorso. Cioè praticamente Paolo non ha ancora iniziato a difendersi e già rischia di essere linciato. Cosa succede? Le truppe intervengono, sempre perché l'uomo è un cittadino romano, lo proteggono e lo riportano all'interno della fortezza. Ecco, quindi la possibilità di una condanna per il momento è sventata. Quello che è interessante è che all'orizzonte di Gesù, che è l'orizzonte della risurrezione, subito viene evidenziato, all'orizzonte di Paolo, che è l'orizzonte della risurrezione, subito viene accostato l'orizzonte di Gesù. Gesù come viene presentato? Dal versetto 11. La notte seguente gli venne accanto il Signore e gli disse: coraggio, come hai testimoniato a Gerusalemme le cose che mi riguardano, così è necessario che tu dia testimonianza anche a Roma. E qua è molto bello il volto di Cristo che traspare da questo versetto. Chi è Gesù? Gesù è il Kyrios, il Signore che sta accanto. Non solo si compie il primo nome che Gesù riceve nel Vangelo di Matteo, no? Il Dio con noi, colui che è con noi, ma viene ripetuto in Paolo quello che anche l'Apostolo Pietro ha vissuto. Nei momenti in cui Pietro era in carcere, Dio gli manda il suo angelo che gli manifesta la presenza del Signore, gli fa cadere le catene, lo invita a mettersi il mantello e a uscire dalla prigione. Ecco, Gesù stesso è accanto a Paolo come Kyrios, come il vero Signore, il vero potente. Secondo aspetto, il volto di Gesù che traspare da questo brano è quello di un Kyrios, di un Signore che fa coraggio, di un Signore che incoraggia, che dà forza nei momenti difficili. E questo è uno dei tanti momenti difficili che Paolo vive. E tra l'altro è l'inizio di una tappa del suo itinerario, che è una delle tappe più difficili, più oscure, perché Paolo ancora non sa il lungo periodo che dovrà rimanere in prigione. E inizia proprio qui, nel contesto di Gerusalemme. Terzo aspetto, Gesù traspare come il Kyrios che conferma il suo annuncio. Paolo ha appena detto che al centro c'è la risurrezione e Gesù lo conferma in questo, proprio standogli accanto. Colui che è risorto è colui che è vivo in mezzo ai suoi e vive con loro le prove che vengono, in cui vengono coinvolti. E qui affiora subito, no, nella mente dell'ascoltatore la promessa del Signore quando insegnava i dodici, no? E diceva: chi mi riconoscerà davanti ai grandi della terra sarà riconosciuto anche dal Padre mio. E questo è proprio un caso evidente. Paolo ha appena confessato il Signore risorto davanti all'assemblea al Sinedrio dei Giudei, il risorto conferma Paolo nel suo apostolato. E poi un'altra immagine del Signore che traspare è un Kyrios che ha in mano la storia e sa bene dove questa storia deve arrivare, per cui gli dice: come hai reso testimonianza a me a Gerusalemme, quindi quanto hai fatto qui è andato tutto bene, nel senso che tu mi hai reso testimonianza, questo è il modo di rendermi testimonianza, però questa testimonianza si concluderà a Roma. Quindi Gesù sta dicendo a Paolo che ha bene in mano le redini della sua vita, sa dove portarlo. Paolo è ripieno di quello spirito che, come abbiamo ascoltato ieri nella liturgia ambrosiana, nei confronti di Nicodemo, colui che rinasce dallo spirito è come colui che è guidato da un vento, che non sai da dove viene e dove va, ma ne senti la voce. Ora Paolo non sa dove lo conduce il cammino, ma Gesù glielo rivela, la voce gli dice: questo cammino ti porterà a Roma. Come? Paolo non lo sa, non sa che passeranno anni, lunghi anni prima di arrivare a Roma, non sa che lo attende un ministero che sarà trascorso in gran parte nella prigionia. Dicevamo già la volta scorsa, un terzo di tutto il ministero di Paolo viene trascorso in una prigione. Noi non dovremmo mai dimenticarci di questo. Il più grande missionario, il primo missionario della storia cristiana, l'Apostolo Paolo, ha trascorso un terzo del suo ministero in prigione. Quindi nell'impossibilità di camminare, nell'impossibilità di annunciare, nell'impossibilità di incontrare le folle, chiuso in una prigione. Questo dovrebbe darci l'unità di misura. Dove si cela la fecondità nella logica di Dio. Non dimentichiamo, l'abbiamo contemplato il giorno dell'esaltazione della croce, nel Gesù immobile sulla croce, senza alcuna possibilità di spostare le mani, spostare i piedi, di pronunciare dei discorsi, perché la sofferenza, totalmente spogliato dalla dignità, totalmente frainteso nel suo insegnamento, lì c'è la massima fecondità della storia, c'è la massima fecondità testata dalla fede cristiana. Quindi dietro questo messaggio c'è un messaggio molto forte nel nostro cammino di discepoli. In tutto questo continua a colpire una cosa, l'abbiamo evidenziata la volta scorsa, ma merita di essere evidenziato ancora oggi: la totale assenza in tutto quello che sta succedendo a Paolo della comunità cristiana di Gerusalemme. E uno si domanda: già Paolo quando era arrivato non era stato proprio accolto calorosamente dai fratelli giudei di Gerusalemme, poi l'avevano invitato a salire al Tempio e compiere tutta una serie di riti che comunque erano dei riti impegnativi. Per Paolo quei riti avevano perso il loro significato più profondo, però per l'amore della comunione con la parte giudeo-cristiana di Gerusalemme si sottopone a quei riti. In quel contesto Paolo viene arrestato, non ce n'è uno della comunità che in questo momento alza la voce per difendere Paolo, per intervenire, e vedremo, questa è una costante che troviamo anche dopo, nel senso che Paolo è esposto anche qui a una grande solitudine. E il Signore si servirà per tutelare la sua vita di tutta una serie di personaggi di secondo piano, personaggi provvidenziali che non hanno alcun rilievo all'interno della strategia narrativa di Luca, se non quello di mostrare come il Signore è davvero colui che sta accanto ai suoi, valorizzando a volte delle modalità del tutto impreviste. Ecco, cari ascoltatori, questa era la parte che questa sera è stata oggetto della nostra conversazione. Ora, come nostra tradizione, lasciamo lo spazio adeguato, abbiamo una mezz'ora di tempo, per condividere domande, riflessioni, dubbi, cercando di stare aderenti al tema che abbiamo trattato. Lascio quindi lo spazio alla regia, che vi darà le indicazioni per contattare e fare le vostre domande, e quindi ci risentiamo tra qualche istante. Pronto, buonasera. Sì, pronto. Buonasera, con chi parlo? Sì, sono Claudio, padre, chiamo da Padova. Io avevo una domanda da farle inerente a Paolo, che spesso mi è capitato tante volte parlando di questi argomenti, ma quanto si può ritenersi discosta l'insegnamento da Paolo da quello degli apostoli? O in altre parole, se non ci fosse stato Paolo, che tipo di visione del messaggio del Cristo avremmo avuto? Grazie Claudio per la tua domanda. Allora, prima di tutto penso che non dobbiamo dimenticare, no, che Paolo, come giustamente lui si definisce, è uno strumento nelle mani del Signore, siamo collaboratori dell'opera di Dio, no? Lui sottolinea, quindi sicuramente se non ci fosse stato Paolo ci sarebbero stati altri collaboratori. Certamente il contributo che Paolo dà alle origini cristiane è il contributo di spingere il cristianesimo non solo, come dire, fuori dagli orizzonti del giudaismo, ma spingere il cristianesimo a camminare attorno a quei nuclei vitali del dono di Cristo, che sono prima di tutto la vittoria sulla morte, il discorso della forza del Cristo in noi attraverso l'azione dello Spirito e poi la liberazione dalla legge. Quindi lo stesso concetto di Chiesa come corpo di Cristo, il passaggio da una religiosità che trovava i suoi nuclei fondamentali nel Tempio, nella sinagoga, nell'osservanza, quindi trovava i suoi nuclei fondamentali in ciò che l'uomo può fare, ad una invece visione di fede dove il cammino dell'uomo è frutto di un dono ricevuto, di una grazia che lo previene e che pian piano lo trasforma dentro di lui. Ora, non è che Paolo parte nel suo annuncio con un progetto a tavolino, per cui Paolo, dopo la conversione sulla via di Damasco, ha tutto chiaro e cerca di imporre la sua visione alla Chiesa delle origini. No, no, no, no. Paolo cresce cammin facendo, esperienza dopo esperienza, grazie al contributo di tante altre persone che lo circondano, da Stefano ad Anania, a Barnaba, alla comunità di Antiochia, poi a Timoteo, Sila, tutti i suoi collaboratori, Lidia, però, come dire, è una visione, quella di Paolo, che va prendendo forma piano piano, e nello stesso tempo Paolo si sente sempre più afferrato da quello spirito, dallo spirito del risorto che lo abita. Io noto, mi sembra di poter dire, che uno degli elementi in cui la visione di Paolo comincia a delinearsi in modo limpido e chiaro, che poi andrà ulteriormente ad approfondirsi, è il momento in cui Paolo fonda la prima comunità cristiana d'Europa, dopo il famoso incidente di Antiochia, dopo l'assemblea di Gerusalemme. Paolo parte in missione in modo, fra virgolette, autonomo con il suo gruppo di collaboratori. La prima comunità che fonda è la comunità di Filippi. Ecco, in quel contesto cominciano a emergere gli elementi chiave di un cristianesimo che non è più, come dire, un gruppo all'interno del giudaismo, ma è una fede nuova, totalmente distinta dalla religione ebraica o dalla religiosità ebraica. È una fede, cioè è un percorso dove il Cristo vive con i suoi doni nei credenti e rende i credenti suoi testimoni. Grazie Claudio per questa tua domanda, perché è una domanda proprio centrale. Pronto? Buonasera. Pronto. Buonasera, con chi parlo? Allora, sono Paolo della provincia di Varese. Senta, io volevo sviluppare il rapporto tra l'essere ebreo di San Paolo, benché nato a Tarso, quindi una comunità esterna alla Palestina, e la sua romanità in quanto acquisita come cittadinanza già dal padre. Cioè, io mi chiedo questo: se Roma era inclusiva, nel senso aveva interesse che anche nelle province le persone più influenti delle comunità acquisissero la cittadinanza romana, mi chiedo come potevano ebrei che avevano identità più forti, per quanto anche la loro religione monoteistica rispetto a quelle politeistiche, come facevano a conciliare la cittadinanza romana che era utile ai fini sociali e quella ebrea? Come dire, ha avuto difficoltà San Paolo, Saulo, tornando nelle comunità romane da romano? Cioè, come potevano essere compatibili queste due identità? Un vero ebreo aveva interesse a prendere la cittadinanza romana, anche se era un vantaggio commerciale e sociale? Certo, certo. La ringrazio Paolo, anche questa è una domanda interessante che meriterebbe un approfondimento ampio anche da parte delle conoscenze che io possiedo. Penso di poter dire questo alla luce di magari altri due o tre aspetti. Prima di tutto, la questione che lei pone emerge anche all'interno dei Vangeli, della narrazione degli Atti, dello stesso brano di oggi. Pensiamo al fatto, in questo caso, della posizione di questo Anania, che è il sommo sacerdote, e di come c'è una sorta di collaborazione comunque tra il comandante e il Sinedrio, cioè il comandante ritiene che l'ambito più adatto perché Paolo sia giudicato sia comunque quello religioso e si fida e lo porta lì in mezzo a loro. E il sommo sacerdote Anania ha una certa autorità. E qui si pone la questione del collaborazionismo, cioè i sommi sacerdoti nell'epoca di Cristo e fino più o meno al 70 sostanzialmente dopo Cristo, vivono un periodo dove c'è questa unione con l'impero di Roma, cioè sono l'elemento che fa un pochino da equilibrio. I romani hanno l'interesse che i sadducei siano vicini a loro, che così tengono buoni i fedeli, tengono buoni il popolo, e i sadducei in cambio ricevono ovviamente altre forme di benefici da parte di questa collaborazione con l'impero di Roma. Ora, un ebreo collaborava o meno con l'impero? Si poteva sentire a suo agio o meno con l'impero? Le posizioni all'interno del popolo ebraico erano diverse. C'era la posizione estrema di chi diceva che le due posizioni erano assolutamente incompatibili, proprio perché alcuni imperatori si erano già vantati di essere l'incarnazione della divinità e avevano usurpato l'unicità di Dio e la sacralità delle usanze dei templi, quindi c'era una posizione che poi nelle forme più estreme era la forma degli zeloti, della resistenza violenta, c'era però la forma più mite, che riteneva che il modo migliore per testimoniare Dio era quello di essere lievito nella massa, e in un certo senso quello anche che Gesù stesso nel suo discorso porta avanti, sottolineando l'importanza di dare a Dio quello che è di Dio e di dare a Cesare quello che è di Cesare, di essere luce che brilla nel mondo e di essere lievito che lavora all'interno della pasta, cioè non mettersi in un discorso di opposizione ma in un discorso di dialogo, anche se ovviamente alcune situazioni potevano essere delle situazioni di tensione, delle situazioni difficili. Che questa seconda posizione, che ovviamente è una posizione più mite, più umile, più silenziosa, fosse feconda, ne abbiamo tante prove, non solo dal fatto che tra coloro ad esempio che sono i primi ammiratori di Gesù ci sono molti, pensiamo al Vangelo di oggi, il centurione che si fa avanti chiedendo che il suo servo sia guarito e che addirittura intercedono per lui gli anziani dei giudei dicendo merita che tu gli faccia questo perché è stato lui a costruirci addirittura la sinagoga, cioè tanti romani diventano timorati di Dio. Vedendo l'autenticità di fede da parte di tanti ebrei si sentono attratti, davvero l'ebraismo è luce del mondo per loro, quindi si sentono attratti e da lì poi passano, si lasciano attrarre da Gesù. E quindi che ci sia comunque tutta una parte dove questa modalità sia efficace è pure confermato. Quindi è davvero possibile che in alcune realtà, soprattutto aperte all'intreccio delle culture, Tarso era una città comunque dove c'era un intreccio di popoli, è uno snodo tra Oriente ed Occidente. Paolo stesso è un intreccio di culture, tra la cultura romana, la cultura greca, la cultura ebraica, quindi è chiaro magari che in alcune realtà questa apertura è ancora più grande e poteva ben convivere in una personalità come quella dell'ebreo. Poteva però avvenire il contrario anche, cioè in una realtà, in una città dove ci sono diversi volti, dove magari l'ebraismo è una minoranza, la minoranza cosa può fare? O porgere la sua ricchezza agli altri in modo aperto o chiudersi e consolidare le sue tradizioni però in modo chiuso e in opposizione. Ora, questo poteva avvenire sia in un modo che nell'altro, cioè gli ebrei del tempo di Paolo, Paolo stesso avrebbe potuto vivere l'una e l'altra forma, però sembra che l'ebreo Paolo fosse un ebreo comunque aperto a un certo dialogo, probabilmente anche per ciò che era stata la storia familiare, la storia di suo padre, la storia della sua dinastia con l'impero romano, anche se aveva sicuramente una grande visione di quella che era l'identità ebraica. Ecco, non so Paolo se ho risposto alla tua domanda, come dicevo è una domanda così mirata che meriterebbe anche da parte mia un serio approfondimento e sicuramente lo hai stimolato, grazie di cuore per il tuo intervento. Pronto? Pronto, buonasera, sono Paola da Civitavecchia, provincia di Roma, buonasera padre. Buonasera. Senta, ho ascoltato praticamente la sua profonda conoscenza di San Paolo e mi chiedevo di questa figura così grande per la Chiesa cattolica, per la Chiesa di Cristo, un uomo che è stato perseguitato e finito in prigione, e praticamente penso anche ai cristiani che sono vittime di persecuzioni nel nome di Gesù, sull'esempio di San Paolo, e mi chiedevo i buoni cristiani di quali mezzi possono usufruire per scoprire la missione che hanno nella storia, sulla terra. Mi dia una spiegazione in questo senso. La ringrazio. Cara Paola, allora io penso che la risposta alla tua domanda sia sostanzialmente una, no? Ed è quello che la Chiesa ha celebrato proprio il 14 di settembre, in quella festa che è la festa dell'esaltazione della croce, no? Dove l'uomo trova una risposta e un significato di fronte alle sofferenze o magari anche alle ingiustizie che vive, ponendosi davanti al mistero della croce. Davanti al mistero della croce l'uomo non solo contempla il dono arrivato fino all'estremo, ma sente che quel dono entra dentro di lui, e non solo entra dentro di lui, oltre ad entrare comincia a premere, e oltre a premere desidera scorrere. E allora scorrere attraverso la vita di ciascuno di noi, di quel dono, ecco, è quello che dà significato. Non siamo noi, non sono le nostre riflessioni, le nostre giustificazioni, no? Che possono dare un valore, un significato, un perché a, non so, agli uomini che sono perseguitati, a quelli che vengono perseguitati per la loro fede, ai cristiani che sono esposti alle prove più diverse, no? Chi per motivi politici, chi per motivi religiosi, chi per il modo in cui testimonia la propria fede nell'ambiente in cui vive, ma l'unico è proprio colui, è l'uomo della croce, l'uomo che dalla croce trasforma quel luogo in un luogo d'amore, con un amore che alla fine vince la morte, quindi dona a ciascuno di noi il suo spirito al punto da far rivivere in noi stessi la fecondità di quel dono. Grazie di cuore Paola per questa tua domanda. Pronto, buonasera. Pronto. Sì, buonasera, sono Francesco, chiamo da Vallo Torinese, il paese della venerabile Maria Ossola. Volevo così sottolineare, mi ha colpito molto il fatto che San Paolo abbia evangelizzato gran parte del carcere, non chiuso in carcere, quindi abbia avuto questa capacità sicuramente donata dallo Spirito Santo di evangelizzare pur non avendo contatti con l'esterno, perché allora non c'erano sicuramente internet, non c'erano insomma tanti mezzi che potevano facilitare questa comunicazione. Quindi se magari ci può dare un aiuto anche a noi che dobbiamo evangelizzare, perché incontriamo spesso questa difficoltà a non portare avanti il nome di Gesù, come possiamo fare a imitare, no, questo grande che era San Paolo. Certo, certo. Grazie di cuore Francesco per questa tua domanda, effettivamente. Allora, dicevo, no, un terzo del ministero di Paolo viene trascorso in prigionia. Ora Paolo sa trasformare l'esperienza della prigionia in esperienza di testimonianza e di annuncio. Lì è il luogo da cui Paolo scrive diverse lettere. Non dimentichiamo che nell'epistolario di Paolo, le 13 lettere di Paolo, diverse sono le lettere della prigionia, lettere che Paolo scrive dalla prigione. Quindi all'interno della prigione lui continua a guidare e curare la formazione delle sue comunità. Secondo, la prigionia cosa favorisce in Paolo? Favorisce la costruzione di una chiesa come corpo di Cristo. Perché favorisce la costruzione di una chiesa come corpo di Cristo? Perché la chiesa viene guidata da un corpo di Cristo, cioè non è Paolo un apostolo solitario che decide tutto lui. Paolo è un apostolo che cresce con i suoi collaboratori, che grazie ai suoi collaboratori guida le chiese e le comunità, al punto tale che in alcune situazioni delicate Paolo avrebbe addirittura perso le sue comunità se non avesse avuto dei collaboratori. E dalla prigione i collaboratori ricevono proprio questa responsabilità di essere insieme a Paolo coloro che guidano le chiese. Terzo, la prigione è il luogo dove Paolo incontra i lontani e quindi ha modo di conoscere diversi carcerieri. Il racconto degli Atti degli Apostoli ci presenta addirittura la conversione di qualcuno di loro, no? Con le loro famiglie. ha modo di conoscere quando è agli arresti domiciliari la guardia che deve stare incatenata al suo braccio insieme a lui, no? In modo da sì, Paolo è in un certo senso libero, ma è agli arresti domiciliari e quindi questo comporta che ci sia sempre una guardia romana insieme a lui e questa vicinanza di Paolo vuol dire qualcosa. Quindi è sì un'esperienza che sembra da un nostro punto di vista limitante, ma quello che farà dire a Paolo: quando sono debole è allora che sono forte. Dio manifesta la sua potenza quando in noi c'è la massima debolezza, proprio perché dov'è la fecondità massima di Cristo? Non è quando fa i miracoli, la fecondità massima di Cristo è sulla croce e oserei dire di più, la fecondità massima di Cristo è quando il suo corpo viene deposto nella tomba, la risurrezione, la vittoria della morte, la vittoria degli inferi, quindi è il momento della massima, del massimo fallimento, della massima oscurità dal punto di vista umano. Ora, Paolo è colui che vive tutto questo. Com'è possibile vivere questa esperienza? Torno all'immagine di prima, stare davanti al mistero della croce, cioè lasciare davvero che il dono di Cristo ci riempia, ci invadi, ci plasmi. Noi da soli non possiamo sicuramente arrivare a un'esperienza del genere, questo è solo un dono che proviene dall'alto, che richiede tanta umiltà, tanta supplica e la capacità di rinascere da acqua e da spirito. Grazie di cuore Francesco per questa domanda così profonda. Sì, pronto, con chi parlo? Buonasera, sono Carlo da Foggia, buonasera. Buonasera Carlo, mi dica. Senta, mi volevo riallacciare alla telefonata del radioascoltatore precedente a proposito della chiamata universale all'apostolato San Paolo, che parlava di San Paolo, e alla santità che Papa Francesco ha ribadito nell'ultima esortazione apostolica. La domanda era questa, cioè... si stenta a livello di omelie, eccetera, a ricordare questa chiamata universale all'apostolato e alla santità di tutti e in particolare dei laici, che sono la stragrande maggioranza del popolo cristiano. La stragrande maggioranza non è fatta di San Paolo, di santi, di monaci, di sacerdoti, ma sappiamo tutti che il 99% dei fedeli laici sono tali. Si sente poco questo, ricordare come si fa a essere santi tagliando i capelli, facendo il farmacista, cosa deve fare un avvocato per essere santo e fare apostolato con discrezione e silenzio, cioè, questo messaggio che Papa Francesco invece ha sottolineato con amori gaudete et esultate, lo ha ribadito in maniera forte, questa è la domanda. Grazie di cuore Carlo, pensa, proprio tra qualche giorno allo studio teologico del Pime di Monza devo tenere proprio una conferenza sui laici missionari nella prima comunità cristiana e proprio devo sviluppare questo aspetto, no? Sono tutte cose che tu hai evidenziato bene, cioè la tua domanda contiene già la risposta, eh? E se ci pensiamo bene, guarda, in ogni Eucaristia, l'Eucaristia si conclude con l'invio e alla fine della messa non è che riceve l'invio solo il prete, no? È la comunità cristiana che riceve dal Signore l'invio a testimoniare come comunità l'azione dello Spirito che è scesa su di essa e di cui si è nutrita nella comunione. Quindi l'item issa est, l'andate in pace, no? È proprio l'invio alla missione, ovviamente ciascuno nel proprio ambiente. È chiaro che Papa Francesco sta evidenziando molto questo aspetto, come sta evidenziando anche l'elemento che lo regge, no? Cioè è proprio la partecipazione al Cristo di cui noi ci nutriamo, cioè il nostro è il Dio con noi. Non è il Dio da tenere nel cuore, non è il Dio da tenere nella testa, è il Dio con noi, è il Dio che cammina con il suo popolo, che parte dalla realtà di oggi per rendere questa realtà una realtà bagnata dalla sua presenza. Quindi sono più che d'accordo con le sottolineature che tu hai fatto. Basterebbe vivere bene la liturgia, caro Carlo, e non si potrebbe non essere missionario. Se uno vive bene la liturgia, deve essere missionario, sente più che deve, sente dentro di sé l'impulso alla missione. Ecco, mi ricollego a questo per ricordare a tutti voi, cari ascoltatori, che noi stiamo vivendo un mese molto particolare. Voi sapete che il mese di settembre, in tantissime parti del mondo, soprattutto in tutta l'America Latina e in tante parti dell'Oriente, è il mese della parola di Dio, è il mese della Bibbia. Perché settembre? Perché settembre nel suo cuore contiene la festa liturgica dell'Evangelista, di colui che apre il Nuovo Testamento, l'Evangelista Matteo, lo celebreremo il 21, e il mese di settembre termina con il grande apostolo della parola, San Girolamo, il 30 settembre. Quindi in tantissime parti del mondo il mese di settembre è proprio il mese della parola. Ecco, cosa ci rende più testimoni, più missionari, se non l'ascolto, l'interiorizzazione, la possibilità di testimoniare la parola di Dio, cominciando prima di tutto a smettere di considerare la parola di Dio come un libro. Non siamo davanti, la Bibbia non è solo un libro, è un volto che ci guarda, che entra in relazione con noi, che si trasmette poi attraverso di noi. Ecco, la Chiesa italiana, attraverso la collaborazione dei diversi volti della famiglia Paolina, no, di cui io faccio parte, sta promuovendo per la fine di settembre, già da 2 anni, la Domenica della Parola, quello che Papa Francesco ha chiesto al termine dell'esortazione post-sinodale del Giubileo della Misericordia, di dedicare una domenica dell'anno liturgico alla Bibbia, alla parola di Dio. Quindi domenica 30 settembre per la Chiesa italiana, è la Domenica della Parola. Se volete, sulla rivista Credere di questa settimana trovate tutte le indicazioni e la possibilità anche di chiedere suggerimenti, idee, materiali per vivere questa Domenica della Parola. Quindi, cari ascoltatori, facciamoci promotori di questo, perché quando noi entriamo nella parola cogliendo in esso un volto e non solo un testo, davvero diventiamo testimoni di quello di cui ci nutriamo. Mi veniva detto in questi giorni, nei giorni scorsi, no? Uno può sapere tutto dell'acqua e non bagnarsi mai. Ecco, non succeda questo per noi, che sappiamo tutto della Bibbia, ma non ci lasciamo impregnare dal suo spirito. Ci dobbiamo lasciar bagnare dalla parola di Dio, in modo che chi poi ci tocca, entra in relazione con noi, si bagni un po' anche lui. È questa la nostra missione. Quindi, mentre vi saluto, auguro a tutti voi ogni bene e aiutateci a trasformare l'ultima domenica di settembre come la Domenica della Parola, secondo l'invito del nostro carissimo Papa Francesco. Un saluto e una benedizione a voi tutti. Grazie di cuore per l'ascolto. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.